mi faccio il brutto. Sì, la coca è meglio, ma la lirica qualcosa di speciale. Sembra farti fare un volo anormale. Ah, è come un giro all'inverso, una capriola, un capoverso scritto al contrario. È come poi al contrario, come scrivere ioni. Siete tutti coglioni. Se ragazzine vi bidonano, voi siete dei marziani. Venite da un altro pianeta, noi astronavi. Scagliate nello spazio Star Trek. Volevi fare l'uno, il due, il tre, beh, hanno scelto me. Adesso dimmi il disgusto che c'è su sta base. Non so cosa fare, cosa ne fare. Si è fatto il culo dal nulla.